www.radio3pod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli le sirene annunciano turni di lavoro sempre più massacranti, il pollo in sbattimento è stato incaricato dal sindacato Polli in Sbattimento di chiamare al telefono una persona importantissima, probabilmente anch'essa in sbattimento. Direzione programmi radio? Sì, buonasera, sono il pollo in sbattimento della fabbrica di polli. Vorrei parlare col direttore, per favore. Non ho capito, con chi parlo? Col pollo in sbattimento della fabbrica di polli. Il direttore aspetta la mia telefonata, siamo già d'accordo. Ah, guardi signora, deve chiamare tra un po' però, perché il direttore non c'è. Ah, verso che ora? Guardi, deve rientrare da mensa. Ah, ok, quindi riproviamo... Tra un pochino, guardi, un quarto d'ora, 20 minuti. Ah, comunque non sono una signora, eh? Eh? Non sono una signora. Ah, va bene. Non ho niente da rapire, solo scusi, per questo. Niente, ci mancherebbe. Richiamo fra una mezz'ora. Va bene. Grazie. Buonasera. In mensa. E poi magari in mensa a mangiare pollo. Non è mica un bel pensiero, Il direttore Valzania che mangia il suo bel galletto allo spiedo. È come se il direttore sapesse che io mi mangio direttore allo spiedo tutti i giorni. E poi quella segretaria lì. Quella mi ha scambiato per una signora, No, ma dico io. Mi sembra per caso una signora. Le signore fanno coccodè, coccodè, coccodè. Io invece ho una bella voce maschia, Non sono mica una signora io, Non sono una signora. Vai tre, Una con tutte ste nella vita. Non sono una signora, dai. Ma una per cui la guerra non è mai finita. La fabbrica di polli. Di polli. Kappa, che ora è? Mezzanotte. Oh mio Dio! Cosa c'è? È mezzanotte. Ah già, è sempre mezzanotte. E tu sei già tutto agitato perché tra 10 minuti vedi la gallina cinese. No, ma perché no? E attento al colonialismo cinese. Ma quale gallina cinese? Ma dai, drago, su. Ah, quella gallina cinese. Sì, quella del pompelmo spremuto. Poi è spremuta di pompelmo e io non capisco perché dica pompelmo spremuto. È come dire contalenti al posto di lenti a contatto. Ma no, è pompelmo spremuto, è per rimarcare il fatto che lei vorrebbe spremermi come un pompelmo spremuto e che vorrebbe essere spremuta da me come una pompelma spremuta. I casi di Douglas oggi sono più di quello che ti puoi immaginare. Aiuta i malati di Douglas. Il Douglas, una malattia terribile. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Chiama il numero 800 Douglas aiuto. Douglas, un attore mediocre per una malattia tremenda. Voglio proprio vedere se mi prendono ancora per una signora. Io mi presento virile come sempre. Pronto? Sono il pollo in sbattimento. Ne proviamo, Ma perché il sindacato ha incaricato proprio me? Cioè, qui quando c'è una rogna me la fidano sempre a me. C'è bisogno di sabotare una macchina? Il pollo in sbattimento. c'è bisogno di uno che tratti male gli altri polli? Il pollo in sbattimento. A parte che quello a me mi viene bene, e mi piace anche. Comunque, c'è da chiamare il direttore Valzaria? Tutti hanno paura, sono tutti vigliacchi. E chi è che lo chiama suo direttore? Il pollo in sbattimento? Beh, ci mancherebbe altro, Comunque io lo tratto bene, il direttore Valzaria. Perché a me mi è simpatico. Pronto? Direttore? Il pollo. Buonasera. Sono il pollo in sbattimento. Ho capito, t'ho riconosciuto subito. Sono molto lusingato di parlare con lei. Sono lusingato io di questo incontro. Finalmente ero un pezzo. Anche se in realtà io poi la chiamavo perché avrei da fare qualche appunto per la nostra vita in fabbrica. Ah, alla vostra vita, non alla mia. No, la nostra. Ah, allora va bene, fai pure degli appunti alla tua vita. Perché, insomma, qui in fabbrica, prima di tutto, siamo troppi maschi. E ci vorrebbero delle quote rosa, perché già è una vita difficilissima. Poi ci vorrebbero delle femmine, delle... Ma quando sei stato al reparto uova non eri contento? Ma insomma, mica tanto. E perché? Ma perché anche lì c'è un'atmosfera oppressiva. Ci si sente un po' in batteria, appunto. Io ho bisogno ma di... quello, se uno è un pollo, non è che si deve stupire troppo. Ma io sono un pollo un po' diverso dagli altri, non sono un pollo che fa uova e basta. Io... Le galline fanno le uova, i polli sono da carne. Ma io da carne ormai... Io sono fuori tempo massimo per la carne. Ho 44 anni e... La mia carne non piacerà più a nessuno, fortunatamente per me. E poi ho anche il becco. E a quello si può sistemare? No, vuole decapitarmi il becco. No, ma se per uno è un problema è il becco, quello si strappa via e... No, anzi, ma per me non è un problema, per me è la salvezza per il becco, È tutto, vabbè, è la mia vita. Perché gli altri polli non ce l'hanno più il becco, Ce l'ho solo io, è per questo che riesco a vivere qua senza morire. Vabbè, comunque a 44 anni ormai uno poi non ha più tanto problemi con le galline. No, però, insomma, anche questo è opinabile. Però parlavo anche di atmosfera, sai che le donne comunque sono piacevoli da vedere, sono più allegre. Quindi, quote rosa nell'azienda è la prima cosa. E poi c'è il problema dello sbattimento. Che lei sa che io sono sempre sbattimento e qua è sempre più alto. Ma lì c'erano delle soluzioni chimiche. Sì, la paroxetina, però non sempre è sufficiente per me. Lei, per esempio... Vorrebbe anche un buon bicchiere di vino rosso ogni tanto. Ah, vede, io proprio questi consigli desidero da lei. A lei capita ogni tanto di avere qualche giornata di sbattimento? Ma con una sana alimentazione, se no ti posso consigliare un viaggio al Monte Athos. Monte Athos? Certo. Ma Monte Athos, cioè cosa c'è al Monte Athos? Monte Athos è il più grande monastero esistente, sostanzialmente, il monastero ortodosso del Monte Athos, anzi sono 20 monasteri, una repubblica monastica, stai lì e preghi. Certo, il problema delle donne non funziona perché lì non sono ammesse del tutto. Devi un po' decidere se vuoi salvare l'anima. Questa è una bella domanda. Mi mette in difficoltà perché, insomma, alle mie piume io ci tengo abbastanza, però l'anima è più importante sicuramente. Sì. In fondo dovresti avere un'immagine monastica della fabbrica. La fabbrica è una rappresentazione cosmologica, è l'universo, è un universo rigoroso. Il Monte Athos è questo qua, è bella roba, ma qui non c'è niente. Tu mi dicono che devo pregare, ma io non ci credo mica a queste cose qua. Che cosa succederà adesso? Il pollo in sbattimento troverà la sua vera essenza meditando in preghiera nell'atmosfera mediterranea del Monte Athos. Che sbattimento il Monte Athos! Lo scoprirete forse sintonizzandovi domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo ontologico allestimento de... La fabbrica di polli produce... Non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muore quasi mai. La